edizione. L'informazione del mattino. Ve lo ricordate il tormentone degli ultimi mondiali di calcio, le 6:15 minuti, perché cominciamo così prima edizione questa mattina? Perché nella notte è arrivata un'indiscrezione già su quello che sarà uno dei tormentoni dei prossimi mondiali di calcio, quelli del 2014 in Brasile. La FIFA infatti ha scelto già la mascotte. Per il momento si tratta di un'indiscrezione arrivata appunto questa notte, ma assolutamente più che fondata. Ebbene, la mascotte dei prossimi mondiali 2014 sarà l'armadillo Tatu Bola, un animale tipico della savana tropicale nella regione centrale del Brasile. È un mammifero in via di estinzione e ha una speciale caratteristica: per difendersi l'armadillo chiude la sua corazza formando una specie di palla molto simile a un pallone di calcio. Ed ecco perché la scelta. Allora, la presentazione ufficiale sarà ad ottobre. Subito dopo la FIFA proporrà una votazione popolare via internet e sms per dargli un nome. Se volete già pensarci, l'indiscrezione di questa notte è questa: sarà l'armadillo, il tormentone dei prossimi mondiali di calcio del 2014. Ma torniamo ai giorni nostri, ci sono le ultime notizie e le prime pagine dei quotidiani, tra poco a prima edizione. Prima edizione. E c'è già una notizia dell'ultimo minuto, allora ve la leggo subito dalle agenzie. La cancelliera tedesca Angela Merkel è arrivata a sorpresa in Afghanistan poco fa per una visita alle truppe tedesche a Mazar-i-Sharif. La Merkel sarebbe dovuta recare a Kunduz, ma ha dovuto cambiare destinazione a causa delle forti nevicate. Fatto sta che è in Afghanistan il giorno dopo le notizie sulla strage compiuta da un soldato americano a Kandahar, con massima sicurezza, perché l'avete sentito anche poco fa in GR24, il premier afghano Karzai non ha garantito sulla possibilità che ci siano delle ripercussioni dopo questa strage, quindi massima attenzione, dicevamo. Intanto però la cancelliera tedesca Merkel è arrivata questa mattina in Afghanistan, continueremo a cercare di capire che succederà. Nel frattempo le prime pagine dei quotidiani questa mattina, già vi anticipo, scelte diverse e aperture diverse, non c'è una notizia dominante, ma cominciamo proprio invece dall'Afghanistan, che scelgono come apertura la Repubblica e come diciamo taglio alto il Corriere della Sera. Corriere della Sera che titola così: la strage casa per casa del sergente assassino, militare americano uccide 16 civili in un villaggio, l'ira del presidente Karzai, lo shock di Obama. Afghanistan, strage di civili, orrore a Kandahar, il titolo della Repubblica. I commenti sono molti questa mattina sui quotidiani dopo quello che è accaduto. Allora, Guido Limpio sul Corriere della Sera scrive: il Pentagono sta studiando una nuova strategia per l'Afghanistan. Già prima di questo massacro era chiaro che il conflitto è durato troppo e che è venuto il momento di allontanarsi da un paese che nessuno ha mai domato. E questo è uno dei temi quando si parla di Afghanistan, un paese complesso, difficile, dove molti si sono cimentati e nessuno ha mai domato. La Repubblica. Il commento è di Vittorio Zucconi, che riporta alla mente scene del Vietnam. Avevamo già visto tutto, scrive Zucconi: un soldato ubriaco, un gruppo di soldati americani in braccio a un fucile automatico e fa strage di afghani, bambini compresi. Si deve inorridire, ma non ci si può stupire. Così Vittorio Zucconi questa mattina su La Repubblica. Altre scelte per altri quotidiani, vi dicevo, e allora il Messaggero apre invece sulla Nigeria. Spunta il video dell'ostaggio, così il quotidiano romano. La Farnesina lo mostrò alla moglie pochi giorni prima del blitz. Confermata la trattativa per liberare la Molinara, Monti alla Camera ardente. Un video di Franco La Molinara, l'ostaggio italiano ucciso in Nigeria, fu mostrato alla moglie, scrive oggi il Messaggero, pochi giorni prima del blitz. E ci sono alcune. Abbiamo un video di suo marito, la facciamo venire a prendere, la portiamo a Roma al più presto, così la notizia dell'esistenza del filmato, e poi sappiamo invece come è andata a finire. Interviene anche il ministro in tutto questo, il ministro degli esteri Terzi, e una lunga lettera Sera, la pubblica oggi il Corriere della Sera. Con Londra chiariremo tutti i dubbi, scrive il ministro Giulio Terzi di Sant'Agata. Tra l'altro scrive... parlando sia della Nigeria che dell'India, dove ci sono ancora, ricordate, in carcere i maro italiani. Su questo secondo punto Terzi è molto chiaro, disse, diedi parere contrario all'ingresso in acque indiane nonostante tale decisione non spettasse al Ministero degli Esteri, ma poi conclude questa lunga lettera: la difesa degli interessi economici nazionali e il sostegno alla crescita del nostro paese hanno in questi mesi costituito una nostra priorità assoluta, e insieme a questo anche spiega Terzi quella che è l'immagine italiana. Le polemiche, lo sappiamo, sono proprio sul ruolo che l'Italia ha nel mondo, e a fianco a questo si collega anche la questione dei servizi segreti, della delega ai servizi segreti, una partita che oggi si aprirà, e si aprirà prepotentemente, come ricorda sempre il Corriere della Sera, perché la trattativa sulla delega ai servizi segreti è giunta ad un punto cruciale. L'ipotesi è quella di nominare a questo punto un sottosegretario o un super direttore. Oggi se ne parlerà davanti al comitato parlamentare di controllo, perché sotto accusa sono messi anche i nostri servizi segreti. Così dunque abbiamo visto Corriere e Repubblica, l'attenzione la portano sull'Afghanistan, il Messaggero apre sulla Nigeria, scelta ancora diversa per La Stampa, ad esempio, che l'attenzione oggi la punta su un altro tema, vale a dire sulla riapertura della trattativa per quanto riguarda la riforma del lavoro. Ne abbiamo parlato anche noi poco fa in GR24, ma La Stampa oggi ha un'intervista in esclusiva. Un'intervista al segretario della CISL, Bonanni. Allora, La Stampa, titolo d'apertura di questa mattina, lavoro, il governo trova i fondi. Ci sarebbero 2 miliardi per la riforma, secondo il quotidiano torinese, l'obiettivo dell'esecutivo è quello di chiudere entro fine mese, come già si era detti. E quindi però siamo a questo punto, siamo al 12 marzo, bisognerà stringere almeno sui punti essenziali. Un'intervista a Bonanni, vi dicevo, sulla Stampa, che dice l'accordo è vicino, ma dalla CGIL troppi no. Ormai ci siamo, nonostante i no della CGIL, noi comunque saremo al tavolo fino all'ultimo minuto, scrive Bonanni. La svolta potrebbe, appunto, dice La Stampa, arrivare oggi col governo che ha trovato le risorse da destinare alla riforma del lavoro. Quali risorse? A questo argomento il Corriere della Sera dedica il taglio centrale. Spese 100 miliardi al setaccio, riprende la trattativa sul lavoro, le ipotesi sono quelle di modificare l'articolo 18 sui licenziamenti, ma i famosi 2 miliardi in più sarebbero trovati dai tagli degli sprechi delle risorse, tagli che dovrebbero andare, dice il ministro Giarda invece al Corriere della Sera, anche a ridurre le tasse, temi che si intrecciano in questo taglio centrale del Corriere della Sera, che fa un po' il punto sia sulla questione della riduzione delle tasse sia appunto sulla ripresa delle trattative sul lavoro, per le quali, dicevamo, La Stampa rivela che i soldi comunque ci sarebbero. Queste le aperture, apertura del Sole 24 Ore, non abbiamo ancora guardato, Sole 24 Ore del lunedì, che apre proprio sulle tasse, altro che riduzione come ipotizza il Corriere della Sera. Per il momento lo scenario è tutt'altro, tasse locali senza tregua, scrive il Sole 24 Ore, rincari anche per l'IRPEF, e agli aumenti in arrivo sull'IMU si sommeranno, infatti, scrive oggi il Sole 24 Ore, quelli delle addizionali regionali già in vigore comunali, e per le famiglie gli incrementi arriveranno anche fino al 150% rispetto al 2011. Per il momento si parla solo di aumenti, ci ricorda il Sole 24 Ore. Taglio centrale dedicato invece ad un'altra questione: rinviati i tagli dei consiglieri delle regioni, solo 4 amministrazioni si sono adeguate ai parametri indicati dalle manovre di Ferragosto, impasse nella riduzione degli stipendi, complice il caos normativo. Fatto sta che per il momento i tagli per quanto riguarda la politica, per quanto riguarda le regioni, sono rinviati. Così il Sole 24 Ore del lunedì. Resta un'altra questione che troverete anche questa in grande evidenza sulle prime pagine di quest'oggi, ed è quella del nuovo scontro tra PDL, tra Berlusconi La magistratura, dopo la vicenda dell'assoluzione in Cassazione, o perlomeno del processo da rifare in Cassazione per Dell'Utri, taglio centrale della Repubblica, Berlusconi e Alfano contro i magistrati, Dell'Utri, il PDL all'attacco dei PM. A fianco l'altra notizia politica di giornata, che è Bossi che parla del voto e dice la Lega va da sola, Silvio mi fa pena. Dell'Utri, 19 anni di gogna, Berlusconi attacca i magistrati, taglio centrale anche per il Messaggero. Per Dell'Utri, 19 anni di gogna e sofferenza, Berlusconi contro i PM, scrive anche il Corriere della Sera. Corriere della Sera, dove vi segnalo anche un'altra notizia di giornata: i 40 milioni dovuti all'erario da Maradona, che tenta l'ultimo dribbling con Equitalia, così il Corriere della Sera. La notizia ve l'abbiamo data anche noi poco fa. Un'altra segnalazione, c'è ancora tempo, ve la do dalla Repubblica, un taglio basso. La grande fuga dall'università, ci va solo il 60% dei diplomati. Se 10 anni fa parlavamo di un paese dove erano moltissimi ad andare a scegliere l'università, 10 anni fa erano il 70% dei diplomati, ora invece la crisi ha fatto cambiare prospettiva. C'è la grande fuga dall'università, ci va solo il 60% dei diplomati ormai in Italia, ed è questa una delle medie più basse d'Europa, così scrive oggi la Repubblica. Pochi secondi ancora li rubiamo prima di riepilogare le notizie di oggi, per guardare lunedì la Gazzetta dello Sport, la prima pagina dedicata al Milan, più 4 è la svolta buona, questo è il titolo scelto della Gazzetta dello Sport dopo questa domenica di calcio, però l'altro titolo è Urla nel silenzio, dedicato invece alla Juventus, che dopo lo stop con il Genoa sceglie di tenere bocche cucite per il gol valido annullato a Pepe. Parlano le immagini, urla nel silenzio, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Sono le 6:28 minuti, vi lascio come sempre all'appuntamento con Alessandro Milan per approfondire ancora i quotidiani in edicola. Per noi una piccola pausa e poi riepiloghiamo le notizie di oggi. Prima edizione. Malumori e accuse dalla Lega, l'avete sentito nel riepilogo delle nostre notizie. L'ultima buttata di Umberto Bossi ieri sera, Berlusconi fa pena, la Lega andrà da sola, ha annunciato, e allora vogliamo capirne un po' di più. Daniele Biacchessi. Italia in controluce. E l'Italia in diretta su Radio 24, buongiorno a tutti, da Daniele Biacchessi. Con le indagini sulla corruzione alla Regione Lombardia, la Lega scopre di essere uguale a tutti gli altri partiti. L'inchiesta su Davide Boni, ad esempio, fa emergere anche nella Lega la questione morale. Il reportage di Cristina Carpinelli. La Lega deve chiarire qual è la situazione all'interno del partito, deve chiarire e dipanare ogni sospetto. È questo di fatto il pensiero dei leghisti dopo la notizia che Davide Boni, presidente del Consiglio regionale lombardo, è indagato per corruzione. Visto l'attacco che adesso c'è verso la Lega e visto che si sta avverando tutto quello che Orwell ha scritto in 1984 e nei suoi romanzi, allora io ti chiedo una domanda semplicissima: come se ne esce secondo te da questa situazione? Danilo da Vicenza, buongiorno. Buongiorno, buona Padania. Altrettanto. Allora, grazie. Faccia venire Davide Boni alla radio, fatelo venire alla radio, lui e il suo portavoce. Ascolta, a me dispiace dirlo, ma io è da tempo che lo dico da questa radio, da quando tutti si scagliavano Cosentino, e io dicevo attenzione perché oggi tocca a loro, domani ci può toccare a noi. La riforma della giustizia, che è la vera riforma, è la madre di tutte le riforme, prima ancora del federalismo, perché adesso tu lo vedi che fine ha fatto il federalismo, lo vedi. La riforma della giustizia per evitare che un gruppo di facinorosi usi il proprio lavoro per fini politici, anche a danno del resto di magistrati onesti, era da fare. Noi siamo stati 8 anni al governo, era una riforma da fare che non abbiamo fatto. E adesso raccogliamo i cocci. La Lega dunque non è in un bel periodo. Da una parte la rottura con il PDL, dall'altra le inchieste giudiziarie che danno una fotografia non tanto limpida del partito. Andremo avanti a testa alta, ci dice Attilio Snec, presidente della provincia di Vicenza. Ma Noi Lega non abbiamo mai avuto dubbi sui nostri comportamenti, perché la Lega come principio di base da parte di tutti gli amministratori la legalità, la trasparenza, la regolarità. Noi siamo fuori, adesso vediamo lì quel caso cos'è, perché di preciso non esistono condanne, non esistono, esiste questa indagine, ma altro non mi è dato di sapere. Certo che noi Lega siamo avulsi e distanti da queste situazioni, poi se ci sono situazioni di carattere personale in cui la magistratura, lo vedremo al momento della condanna, ma questi sono fatti personali, non riguardano noi della Lega nel modo più assoluto. Era il reportage di Cristina Carpinelli su Lega e Tangenti, Italia in controluce, prima edizione, torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. Minuti, ancora buona giornata da Anna Migliorati, seconda parte di prima edizione. Da qualche giorno il Sole è un vero e proprio sorvegliato speciale, sono infatti numerosi satelliti americani ed europei che lo stanno osservando, inviando a terra dati aggiornati e immagini spettacolari di una tempesta solare. Le immagini, ne abbiamo parlato anche a prima edizione di venerdì, sono davvero spettacolari, e allora abbiamo voluto tornare un po' su questo argomento. Ne parliamo questa mattina con Alessandro Benporad dell'Osservatorio di Torino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Buongiorno. Buongiorno. Facciamo un balzo sul in cielo davvero con il sole, questa tempesta solare che però dei riflessi li ha anche per noi. Cominciamo da qui, poi ci racconta che succede sul sole. È vero che è un brutto periodo per i GPS? Beh, diciamo che sì, ci sono dei pericoli in effetti, perché il sole si sta lentamente risvegliando, tutta l'attività del sole ha un periodo ciclico, con un periodo di circa 11 anni, quindi si passa tipicamente sempre da una fase di minimo di attività, in cui succede poco e nulla, a una fase di massimo invece, nel corso della quale diciamo aumentano sia le macchie solari che le cosiddette regioni attive, che sono sul disco solare le sorgenti appunto delle tempeste solari, e si prevede appunto che per la fine del 2012, inizio del 2013, con una certa incertezza, arriveremo alla cosiddetta fase del massimo, del picco dell'attività solare. E proprio negli ultimi giorni, a partire dal 7 marzo e poi nei giorni successivi, sul disco solare abbiamo visto l'emergere letteralmente di una nuova regione sorgente delle tempeste solari, e dalla quale appunto si sono originati diversi brillamenti nel 7, 8, 9 marzo. E uno dei riflessi sulla Terra è un disturbo, diciamo così. Si verifica in corrispondenza di ognuno di questi brillamenti una tempesta solare che poi nel tempo di, a partire da alcune ore fino a un massimo di 2-3 giorni dopo, raggiunge la Terra, la investe bombardando il campo magnetico terrestre e poi provocando dei disturbi sia sui segnali radio a terra, ma anche danneggiando satelliti per telecomunicazioni e satelliti GPS in particolare. Non su di noi? Non su di noi, assolutamente. Noi per fortuna siamo protetti dal campo magnetico terrestre, la magnetosfera, che deflette queste particelle ad alta energia che arrivano dal Sole. Però essendo noi super tecnologici potremmo avere qualche problema un po' per tutto quest'anno. Noi dipendiamo molto dalla tecnologia e quindi stiamo paradossalmente diventando sempre più deboli, diciamo, nei confronti dell'attività solare. Sempre più esposti a rischi. Le faccio una domanda, so che vi fa storcere il naso, però facciamola lo stesso, visto che tra l'altro parlandone è stato lei stesso a stuzzicarmi un po' nei giorni scorsi quando ci siamo sentiti. Nulla a che fare con previsioni catastrofiche dei Maya? No, assolutamente no, anzi cioè colgo l'occasione per raccontare una brevissima storiella. Diciamo, verso la fine del 2008 eravamo nel minimo solare e la NASA previde che il prossimo massimo sarebbe stato il massimo di maggiore intensità e che si sarebbe verificato proprio alla fine del 2012. Quindi tutti i catastrofisti del 2012 ovviamente lanciarono l'allarme: ah, questa è la dimostrazione che ci sarà una super tempesta che distruggerà tutto. Ovviamente noi non abbiamo una conoscenza così sicura del ciclo solare, tant'è che attualmente le previsioni più recenti ci dicono che anzitutto il massimo sarà verso febbraio del 2013, ma oltretutto sarà uno dei massimi più deboli degli ultimi 50 Quindi anni. Quindi ne abbiamo passate di peggio in questi millenni. Sì, assolutamente. Allora, restano davvero qualche problema tecnologico, ma questo prevedibile, e immagini davvero spettacolari su molti siti, davvero li trovate. E grazie ad Alessandro Benporano, Osservatorio di Torino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Grazie, buon lunedì. Saluto già il prossimo ospite intanto. Allora, voltiamo pagina, parliamo questa volta di rifiuti. Eccoci qui, grazie Peter Bescapè, ci aiuta a voltare pagina. Saluto il vice sindaco di Tivoli, Giorgio Strafonda, buongiorno. Buongiorno. Prima edizione. Il Lazio, come la Campania, rischia il caos sul fronte dei rifiuti. È molto tempo che se ne parla per la chiusura ormai vicina della cosiddetta discarica di Malagrotta, la sapete, la più grande discarica italiana, ma il ministro dell'Ambiente Corrado Clini ha convocato per questa mattina alle 9, cioè tra poche ore, una riunione per provare ad affrontare l'argomento. Perché? Perché sono stati individuati dei siti alternativi a Malagrotta, tra cui Riano e Carcolle, ma ci sono molte polemiche e molti dubbi. Uno di questi riguarda proprio il comune di Tivoli, il vice sindaco Giorgio Strafonda. Allora, buongiorno. Buongiorno. E una delle vostre perplessità, vogliamo che questa mattina ce le racconti proprio poco prima del vertice, è, oltre ai problemi ambientali e di scelta di questo sito, è anche un allarme per il patrimonio culturale italiano, perché questa nuova discarica sarebbe vicinissima ad un gioiello del patrimonio italiano, è così? Sì, è vero, è vicino alla Villa Adriana, a un chilometro circa, diciamo. E quindi voi temete che questa scelta di questo sito possa danneggiarla, ma non solo dal punto di vista turistico, giusto? Ma diciamo che la nostra preoccupazione è quella che riguarda naturalmente i problemi che porta con sé una discarica. Per gli abitanti, naturalmente. Soprattutto quando riguarda la salute dei cittadini, per le esalazioni, l'inquinamento delle falde acquifere, la contaminazione da percolato, quindi questa è la nostra prima preoccupazione. Poi diciamo, ecco, qua Tivoli è un comune che vive di turismo, quindi non so se noi possiamo immaginare magari una discarica, facendola un paragone, se noi avessimo una discarica vicino alla Torre Eiffel o vicino alle Pirate Aramide o al Colosseo, quindi ecco, è questo quello che ci preoccupa, insomma. L'altra preoccupazione però è che non si finisca come la Campania, quindi una soluzione andrà trovata. Ma io credo che una soluzione, noi crediamo anzi da come è comune, però crediamo pure che non siano le discariche la soluzione al problema. Cioè ci sono qua altre forme di smaltimento dei rifiuti, quindi ecco, non vedo perché il governo, la regione non mettono in atto quest'altra forma di smaltimento, che sono la più sicure, meno ingombranti. Sente, il ministro Clini ha deciso, dicevamo, di prendere in mano direttamente la situazione. Tra un paio d'ore ci sarà questa riunione. Voi vi aspettate una svolta o sarà ancora lunga la storia romana dei rifiuti? Guarda, io mi auguro che ci sia una svolta. Però naturalmente la conoscendo anche come vanno le cose in Italia siamo un po'... Anche perché il termine è luglio, non manca moltissimo. Sì, ma qua siamo vicini, diciamo, qua siamo alle proprie porte. Noi abbiamo la scritta a Monti, al Ministro dell'Ambiente, alla direttrice della Generale, la De Luna Enescu, la stiamo insieme ai cittadini che si stanno muovendo ancora, abbiamo presentato il ricorso al TAR che verrà discusso il prossimo 18 aprile, era il 7 marzo, ma è stato rinviato. Ma una cosa che ci ha lasciati un po' perplessi è stato che è giovedì della scorsa settimana c'è stata una conferenza dei servizi convocata dalla prefettura a cui noi non hanno permesso di partecipare. Partecipare da come comune. E insomma, speriamo che non si apra qui, proprio a Tivoli, attorno a Villa Adriana, il prossimo nodo dei rifiuti e le prossime polemiche per un'opera che non piace ma che si deve fare. Grazie allora intanto al vice sindaco di Tivoli, Giorgio Strafonda. Grazie, buon lunedì. Grazie a lei e a tutti i vostri radiospettatori. Grazie, arrivederci. Allora, questo accade alle 9, ci sarà questa riunione e vedremo, le manifestazioni già si annunciano per questa nuova discarica. Chiude intanto Malagrotta. Grazie intanto, buon lunedì. Tra pochissimo ci risentiamo con GR24. Grazie come sempre a Viola Bottoni e Peter Bescapè. A tra poco.